Benissimo. Allora, l'ultima relazione della mattina è del professor Adriano Prosperi dell'Università di Pisa sulla recezione della storiografia tedesca sulla riforma fra le due guerre mondiali, Delio Cantimori e Federico Chabot. Approfitto, siccome è un po' tardino, per annunciare un mutamento di programma che avevamo pensato prima per il pomeriggio, anche per dare fiato alla discussione nel pomeriggio sulle relazioni, diciamo. Se no non ci sarebbe posto con 5 relazioni per uno sviluppo adeguato della discussione. Allora si pensava di mantenere la struttura immutata, tranne questo fatto che il professor Wolfgang Schieder alle 17, insomma, cominciamo la discussione sulle relazioni della giornata, e invece la relazione del professor Wolfgang Schieder sarà domattina alle 9, e quindi alle 10 cominceremo la Versammlung del Verein, la discussione dei problemi generali, eccetera. In modo che dalle 10 alle 12 c'è 12:30, insomma, ecco, c'è spazio sufficiente per la discussione del Verein, insomma, e la relazione Schieder quindi è domattina. La parola al professor Prosperi. Grazie. Questi appunti sono legati, sono organizzati intorno ai nomi di Cantimori e di Chabot. Ogni considerazione relativa alla storiografia italiana sull'età della riforma e sulla storia religiosa del Cinquecento deve rifarsi necessariamente alle due opere che rinnovarono questo ambito di ricerca, gli eretici italiani del Cinquecento, del 39, e di Cantimori, e per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il regno di Carlo V, note e documenti di Federico Chabot del 1938. Li elenco in ordine inverso rispetto a quello cronologico, non solo e non tanto per ristabilire un ordine di importanza, quanto a valore assoluto, quanto piuttosto tenendo presente la questione che è proposta da questo seminario, la presenza viva e attiva della storiografia tedesca. D'altra parte, per quanto riguarda la successione nel tempo, si dovrà pur ricordare che fin dal 1937 uscì a stampa la Silloge di documenti per la storia degli eretici italiani nel secolo XVI in Europa, curata da Delio Cantimori e da Elisabeth Feist. Si noti che il titolo segue lo stesso andamento di quello scelto subito dopo da Chabot e come quello è dedicato a un libro fatto di documenti, solo che Cantimori separò l'edizione dei materiali dal quadro storico che ne trasse. L'analogia nei titoli indica intanto chiaramente, al di là delle strade diversissime e delle diverse ispirazioni dei due autori, che la storiografia italiana sul Cinquecento sentiva necessario allora un impegno erudito, e lo sentiva tanto più fortemente quanto più si accostava alla storia religiosa. Molto meno lo avvertiva sul terreno delle ricerche e discussioni sul Rinascimento. Qui le strade di Cantimori e di Chabot convergevano in tutt'altra direzione. Ambedue si erano opposti a quella data, 1937-39, di sistemare l'uso dei concetti e dei termini relativi al Rinascimento. Cantimori col saggio sulla storia del concetto di Rinascimento, pubblicato nel 1932, e Chabot con una relazione al 7° Congresso Internazionale di Scienze Storiche di Varsavia del 1933, che è uno fra i tanti interventi che Chabot dedicò alla questione. Per ambedue il Rinascimento sembra un campo di minor resistenza e attrazione, dove l'armamentario concettuale, idealistico e storicistico bastava a dire che cosa si dovesse pensare: storia dei termini, storia come storia della storiografia e come storia della filosofia. L'opposizione tra Rinascimento e Riforma era, in termini astratti e generali, rifiutata da tutte e due, che si rifacevano per questo all'opera di Konrad Burdach, per ricavarne la conclusione, cito da Chabot, dalla relazione sopra indicata, per ricavarne la conclusione che i fattori religiosi erano stati fondamentali nell'origine del Rinascimento. E fu proprio per intervento di Cantimori che l'opera di Burdach, che Chabot considerava il più notevole studioso del Rinascimento dopo Burckhardt, comparve in traduzione italiana dalle edizioni Sansoni nel 1935. Certo, nessuno dei due prestò più che tanto attenzione all'opera mediocre di Guido de Ruggero, che nel 1930 aveva messo a punto una sistemazione della triade Rinascimento, Riforma e Controriforma secondo spunti crociani. Chabot ne fece tuttavia non disonorevole menzione fin dal 1933, forse perché più sensibile di Cantimori a questa offerta di sistemazione concettuale che gli lasciava il campo sgombro e ordinato per il lavoro suo di storico. Ma se il Rinascimento non era da vedersi in opposizione con la Riforma, era perché nel diffuso e confuso parlare di rinnovamento e di riforma si tendeva a risolvere la religione nella cultura e, per converso, a trovare nel Medioevo religioso, un punto di partenza necessario per arrivare al Rinascimento. Confusione, certo, la parola è proprio di Cantimori. Tutti allora, scriverà Cantimori intorno al 1942, introducendo l'edizione tedesca dei suoi eretici nella traduzione di Werner Kegi, tutti allora in Italia parlavano di rinnovamento e di riforma. E qualcosa di quella confusione, che non riguardava soltanto la cultura italiana, la cultura storiografica italiana, si ritrova nella prefazione di Konrad Burdach alla edizione italiana del volume che uscì col titolo Riforma, Rinascimento, Umanesimo, coi suoi elogi, io cito, al senno dei due capi e veri tribuni del popolo d'Italia e di Germania, che gli apparivano, ci si riferisce ovviamente a Hitler e a Mussolini, che gli apparivano continuatori e realizzatori dell'ideale nazionalismo di Cola di Rienzo, una rivoluzione nazionale, cito ancora, che ha creato la rinascita dell'unità, della forza, dell'ordine nazionali nell'uno e nell'altro paese, pur nel rispetto, aggiungeva Burdach, della civiltà nazionale anche di ogni altro popolo. Mentre veniva stampata quella traduzione, per volontà di Cantimori, che la giudicò, cito da una sua dedica, un lavoro modesto ma utile, modesto il lavoro della traduzione, ma utile e importante la circolazione dell'opera, un lavoro utile e necessario al momento, usciva anche, sempre dalle edizioni Sansoni e sempre per cura di Cantimori, l'opera di Carl Schmitt, Principi politici del nazionalsocialismo, che si apriva con un saggio di Cantimori che è sempre importante rileggere. Nel giudizio che egli dava della situazione del nazionalsocialismo, diviso tra le soluzioni, cito, ardentemente auspicate dalle folle dei giovani hitleriani e quelle volute dalle forze sostanzialmente intatte della Reichswehr, della grande industria, dell'alta finanza, degli agrari, si rifletteva qualcosa del suo modo di vedere il fascismo e delle speranze di rinnovamento e di rivoluzione italiana che egli pose indubbiamente nella situazione creatasi in Italia. Era un punto di vista dall'interno e insieme distaccato. Era anche una mescolanza di storia e politica che è difficile separare e distinguere. La distinzione avvenne nelle cose e fu imposta da quello che avvenne allora e in seguito e che impose a tutti scelte gravi. Ma la distinzione avvenne allora per Cantimori nel lavoro di storico e in quello separato da quello di filosofo e osservatore della politica. Quella tradizione religiosa nazionale, individuata come la forza originaria e la radice del Rinascimento, una volta affrontata sul terreno concreto della ricerca storica, rivelò una sua autonomia e una sua solidità, sottratta agli inganni e alle delusioni delle scelte politiche presenti. Anche per questo quella ricerca sugli eretici doveva tornare a farsi più e più volte attraente per Cantimori ogni volta che gli strumenti di analisi e di orientamento nel presente mostrarono la loro fallacia. Lasciamo i sociologi del secolo XX e torniamo ai teologi del secolo XVI, è una frase di Cantimori rivelatrice che fu scritta in un altro momento ma che indica un'opposizione tra le scienze del presente, tra le conoscenze del presente e quelle relative al passato. Ma torniamo a Chabot e a Cantimori. La storiografia tedesca che le loro opere filtrarono in Italia fu di tipo molto diverso, ma fu comunque la storiografia per eccellenza, come era inevitabile nell'ottica della cultura universitaria italiana dell'epoca. Durava ancora e durò oltre la catastrofe della Germania l'egemonia culturale della storiografia tedesca. Si poteva e si doveva registrare la frattura che si andava profilando fra storici tedeschi costretti all'emigrazione e storici che restavano e dominavano le cattedre delle università e lo scenario culturale tedesco. Dall'osservatorio pisano, che fu fino a un certo punto quello di Cantimori, non poteva passare inosservata l'emigrazione di Paul Oscar Christeller, tanto per fare un esempio. Anche recentemente Christeller ha rievocato la discriminante tra filosofia e filologia che divideva le università di Firenze e di Pisa, che lo accolsero. Anche i suoi amici italiani potevano tentare di distinguere fra questo e quello dei loro interlocutori tedeschi. E tuttavia, ai loro occhi, quella nel suo insieme e non altra era la storiografia. Questo è abbastanza ovvio, forse, ma vale ripeterlo perché non deve stupire l'assenza da quel panorama che emerge dalla lettura delle opere degli storici italiani di un'altra storiografia destinata a diventare in seguito dominante, quella francese di Bloch e soprattutto, per il caso nostro, di Lucien Febvre. Quella voce non era passata inosservata, certo. La lunga rassegna dedicata da Carlo Morandi al saggio celebre di Febvre sulle cause della riforma è pur sempre un documento importante, ma quello scritto resta un'emergenza isolata in una storiografia che parlava sostanzialmente solo tedesco. E del resto, a ben guardare, la questione che Febvre affrontava, quella del primato nazionale francese nel suo rapporto con la riforma, era la stessa questione che dovevano affrontare gli storici italiani e che per tutti implicava un confronto e una discussione con la storiografia tedesca, che della riforma aveva fatto il vanto di un primato nazionale. La discussione era per tutti allora sulla questione del primato, per tutti coloro almeno che si volevano soffermare sul rapporto fra la riforma e il mondo attuale, il mondo di allora. Dunque, l'interesse per la questione della riforma e della controriforma rappresentò per la storiografia italiana di quegli anni un identico richiamo al lavoro filologico e erudito, allo scavo fra i documenti di biblioteca e di archivio. Archivistica fu la scienza di Chabot, legata alla produzione delle magistrature statali milanesi e pervasa da un forte senso dello Stato e da un'idea della storiografia come storiografia legata alla storia dello Stato. Per Cantimori si trattò di biblioteche, Cantimori che teneva a qualificarsi come non come storico, ma come modestamente studioso di storia. Si trattò di biblioteche come luoghi dove le testimonianze del pensiero italiano trovavano la loro collocazione naturale in un ricostituito dialogo di ampiezza europea. E se il viaggio celebre, il viaggio archivistico di Chabot si era proiettato verso Simancas e le istituzioni di governo dell'impero spagnolo, il viaggio di Cantimori aveva percorso l'Europa protestante, indagandone i pensieri, leggendone i libri e coltivando rapporti personali. L'ampiezza di quei contatti e di quelle scoperte non può essere ricostituita sulla sola base di quello che se ne depositò nei libri e nei saggi a stampa. Quando gli epistolari che circolarono in quegli anni tra l'Italia e l'Europa saranno leggibili, penso per esempio all'epistolario fra Cantimori e Werner Kegi, potremo saperne di più, ma intanto sulla base delle opere utilizzate nelle due ricerche, quella dedicata agli eretici da Cantimori e quella dedicata alla vita religiosa ortodossa da Chabot, una scelta questa tra l'ortodossia e l'eresia, che potrebbe assumere un valore simbolico di due orientamenti storiografici che rimasero diversissimi. Sulla base dunque delle opere utilizzate si possono già avanzare delle prime impressioni. Scarse sono le presenze tedesche nel volume di Chabot. Avviandosi per una strada che riguardava la vita religiosa e non le idee, avrebbe potuto trovare rinvii e riferimenti senza difficoltà nella storiografia tedesca sulla riforma e porre esplicitamente in luce la novità di metodo del suo procedere. Avrebbe anche potuto segnalare che qualcosa in comune c'era tra il suo lavoro e il lavoro di Febvre sulla Franca Contea, o dello stesso Febvre al tentativo di risolvere le origini della riforma nella vita e nei problemi di una società determinata. Non lo fece, aderendo, come fu sempre sua abitudine, alle sue fonti e compiacendosi più di una citazione opportuna dal Burigozzo che di un rinvio alle voci storiografiche consonanti con la sua. Appare tanto più notevole che tra i pochi ospiti delle sue note annoverino tra di loro il nome di Yedin, fresco autore della monumentale biografia del Seripando. E non mancano nelle sue note i volumi del Concilium Tridentinum, che fanno così la prima comparsa nella migliore storiografia italiana. E con essi naturalmente compare Gottfried Buschbel, che aveva percorso le fonti del Concilium Tridentinum. Storiografia cattolica, in prevalenza, e per il versante relativo a Lutero, un interessante rinvio al Luther in Ecumenischer Sicht, edito a cura del von Martin nel 1929. L'attenzione alla società e alla storia della vita religiosa come tema di storia sociale vissuta nelle istituzioni e condizionata dai processi politici è tipica dell'atteggiamento di Chabot e qui risiede anche buona parte del suo fascino sugli studi che lo fece considerare lo storico per eccellenza o il grande storico, come Cantimori più volte insistendo lo definì fin dalle sue prime recensioni. Cantimori, studioso di storia, il fatto è che alla religione Cantimori si rivolgeva cercandovi la storia di processi di coscienza che aveva studiato prima da filosofo e da uomo vitalmente interessato alla politica e alla propaganda. È un fatto messo bene in luce dal modo in cui era arrivato a formulare il problema storico della sua ricerca sugli eretici italiani. Un primo abbozzo manoscritto datato agosto 1934 e quindi collocabile alla fine della sua lunga peregrinazione europea che aveva preso avvio dalla Svizzera, ci permette di cogliere un punto importante. Fin dall'inizio di questi suoi appunti, che rappresentano la prima traccia del suo progetto, la questione che Cantimori avverte come decisiva è quella del rapporto tra religione e politica, non nella forma da lui considerata astratta delle origini dell'idea di tolleranza, ma in quella del mettere in discussione su basi religiose l'assetto politico e sociale. Cominciano questi appunti così. Non interessa la storia positiva di queste idee, non può interessare se si accetta il punto di vista giuridico che trova un'importanza e un significato nel movimento ereticale italiano tra i riformati solo nella loro polemica in nome della tolleranza. Ma se si esce dal punto di vista strettamente giuridico e si considerano le implicazioni politiche di quella posizione giuridica e di diritto canonico, si ha subito un'interessante osservazione da fare. Gli eretici mettono in dubbio la liceità per il cristiano di assumere cariche statali e specificamente di entrare nella magistratura, conseguenza della prima negazione che il magistrato debba occuparsi di punire i dissidenti. Ma a questo punto occorre considerare dall'interno lo sviluppo delle idee ereticali. Non si tratta solo di una conseguenza della discussione giuridica, si tratta di una particolare dottrina teologico-politica radicata nel pensiero religioso di quegli eretici, come nel sommuoversi di vaghe aspirazioni sociali in quell'epoca. Poi, sgombrato il campo dagli esuli italiani che si inserirono nelle chiese della Riforma, Galeazzo Caracciolo, su cui era appena uscito lo scritto di Croce, Pierpaolo Vergerio, passava a individuare il gruppo che gli interessava, la parte più viva e dal punto di vista dottrinale e teorico produttiva degli emigrati italiani è rappresentata dal gruppo degli eretici, dai pensatori indipendenti che entrarono presto in lotta anche con i nuovi superiori e benché fossero allora dispersi e perseguitati o dovessero vivere miseramente, dettero un vero contributo positivo al processo di liberazione e di acquisto dell'autonomia che caratterizza le menti europee dell'epoca. Sottolineerei quest'ultima delimitazione del campo di studio della riforma. Quello che importa a Cantimori non è la riforma in genere, ma il fatto che la riforma di Lutero avesse creato le condizioni per il riaccendersi di antichi movimenti ereticali e su questa strada per rintracciare quello che gli appare il vero contributo positivo al processo di liberazione e di acquisto dell'autonomia. A differenza dell'immigrazione protestante, che comprende intere famiglie, quella degli eretici è formata da intellettuali che vivono della loro penna, e Cantimori si avvia attraverso questa descrizione al vivo della sua ricerca. Muovendo da questo tipo di interessi molto nettamente individuati, la storiografia tedesca sulla riforma è utilizzata largamente, ma non serve tanto per suggerire schemi interpretativi generali, bensì per individuare personaggi, confermare notizie specifiche e fornire dati. Con qualche eccezione, naturalmente. Negli eretici di Cantimori si rinvia al Trölsch del protestantesimo nella formazione del mondo moderno, per far leva sulla ormai comunemente accettata, cito, tesi del carattere reazionario della prima riforma. Ci si può chiedere se veramente la tesi del carattere reazionario della prima riforma fosse comunemente accettata allora, o se non servisse piuttosto a Cantimori per appoggiarvi la sua ricostruzione dei processi innovativi avviati dagli eretici italiani, e quindi spostare il primato nella genesi del mondo moderno dalla Germania di Lutero all'Italia degli eretici. L'opera del Trölsch era da poco comparsa anche in traduzione italiana e nel volume di Cantimori serviva a argomentare quel distacco degli eretici italiani dal mondo medievale in cui invece, secondo lui, la riforma di Lutero e Calvino restava chiusa. Su questi temi ci fu anche una polemica di Cantimori con Benedetto Croce. Si trattò di un episodio molto importante, a cui Cantimori, riconsiderando alcuni anni dopo quella fase, legò il suo passaggio decisivo dalla filosofia alla filologia. Questa discussione, scrisse nell'abbozzo della premessa all'edizione tedesca, redatto intorno al 1940, questa discussione chiarì che si trattava non di storia del pensiero filosofico, ma di storia delle dottrine e dei movimenti politici. Era un passaggio dalla filosofia alla storia. A Cantimori sembrava di poter affidare a questa discussione con Croce, dunque, la maturazione che lo aveva indotto ad abbandonare il punto di vista iniziale. E qual era stato questo punto di vista iniziale? Intorno al 1940, in questo appunto manoscritto, la definizione è piuttosto interessante. Vorrei spiegare che mi rifaccio agli appunti non pubblicati, ai materiali manoscritti, laddove mi sono stati accessibili, perché l'opera di Cantimori sugli eretici è un libro finito molto presto, pubblicato molto presto, ma poi rimasto perennemente allo stato di progetto, tornato continuamente d'attualità. Un tentativo di storia complessiva dell'Italia cinquecentesca dal punto di vista dei dibattiti religiosi che ha accompagnato Cantimori per tutta la vita e non è mai approdato ad uno stadio definitivo. Quindi il modo in cui Cantimori riflette su questo laboratorio aperto è sempre molto interessante e serve da spia del mutare di posizioni storiografiche e anche del mutare di cose più grandi. La ricerca, scriveva Cantimori intorno al 40, fu dapprima impostata come molti giovani in quel periodo volevano impostare il loro lavoro. A. Partecipazione italiana, in posizione di primato a un grande movimento europeo. B. Ricerca di precursori italiani del pensiero moderno e quindi lavoro tenuto sul piano esclusivo della storia del pensiero filosofico, origini italiane del nazionalismo, del problema metodologico nella filosofia, della idea della tolleranza e della libertà religiosa. Ma a un certo punto della ricerca sorgeva un problema di erudizione, di filologia nel senso lato, vichiano della parola. Rapporti fra idee e idee se ne potevano stabilire tanti e così facilmente che alla fine sorgeva il sospetto della loro arbitrarietà. Ma le vite degli uomini, le loro attività intellettuali, i rapporti fra uomini sembravano sempre meno chiusi e precisi. e così insensibilmente si passò dallo studio dottrinario allo studio erudito. Non si limitarono a questo le riflessioni di Cantimori, che altrimenti ci potrebbero apparire maturate in ambito esclusivamente italiano e ridurrebbero le sue letture tedesche a mero esercizio di ricercatore erudito in cerca di materiali del tutto insensibile all'ambiente in mezzo a cui si muoveva. Non fu così. Lo stesso Cantimori dovette ammetterlo, sempre in questo abbozzo che mi sembra molto ricco e molto interessante, e scrive: attraverso il contatto concreto col mondo religioso protestante, nella silenziosa frequenza di un seminario e di lezioni di storia della Chiesa, tenuto ancora nella vecchia Università di Basilea, in aule dove aveva insegnato il Castiglione e forse anche il Curione, dal professor Stahelin, sulla Institutio di Calvino e sul pensiero di Alessandro Vinet, le prime scosse alla ingenua concezione che da lontano ci si era potuta fare della religiosità protestante come religiosità filosofica arrivarono, e infine, attraverso letture e studi e conversazioni in ambienti culturali aperti e liberi, si cominciò a chiarire anche in altro senso la coscienza morale e politica. E si cominciò a capire che la riforma, il rinnovamento morale, politico, sociale, non era semplicemente rivoluzione in un cervello o in molti cervelli. Molte altre cose avrebbero contribuito a quel risultato, ad accostare cioè Cantimori ad una diversa considerazione della riforma, a una maggiore curiosità o comprensione per la lenta e decisiva opera di rinnovamento politico, morale e sociale. In fondo, in quegli anni, i suoi scritti di carattere sintetico sul tema riforma e controriforma continuarono a tornare sulla questione del primato italiano, come è evidente ad una semplice lettura, ad esempio, della voce controriforma redatta per il dizionario italiano, il dizionario fascista di politica intorno al 1940, in cui la riforma protestante appare rinnovata dagli eretici italiani e la controriforma dai riformatori cattolici italiani, quindi un primato italiano per ambedue le fila del processo religioso che investe l'Europa all'inizio dell'età moderna. E tuttavia quel passaggio attraverso l'Europa protestante, le lezioni basileesi di Karl Barth, la frequentazione di amici come Werner Kegi, col quale durò ininterrotto lo scambio epistolare e più tardi l'amicizia per tutta una vita, il contatto con la società protestante gli ispirarono un rispetto, una simpatia, un continuo richiamo alla serietà dell'impegno morale quotidiano che si avvertirono forse più nell'opera di insegnante di Cantimori che nella sua produzione. I suoi molti corsi sulla riforma, l'attenta ricostruzione del mondo zurighese, dell'importanza di Zwingli, delle circostanze della battaglia di Kappel, dei colloqui di religione, l'infinita serie di appunti dedicati a ricostruire il contesto politico e teologico della prima riforma dimostrano di quali basi si alimentassero gli sparsi accenni a quel mondo protestante che compaiono nei suoi scritti. Del resto, chi lo ha conosciuto può ben testimoniare che tutto nella personalità, nella stessa figura fisica di Cantimori, tendeva a ricordare questa sua frequentazione del mondo accademico tedesco, la sua estraneità ai modelli latini di studioso e di docente, e la sua biblioteca, da sola, è il documento più eloquente di una identità culturale forgiata nell'ambito della cultura tedesca con una curiosità mai interrotta, con studio assiduo, con attrazione profonda, spesso con forti venature di autoironia. La collaborazione alla rivista Studi Germanici, l'attività presso l'istituto di Villa Sciarra si saldano così ad una attività di editore che, dopo Burdach e Schmidt, si esplicò nella edizione del sommario di Storica del Droysen e più tardi nella cura editoriale dei Römische Päpste di Ranke. A questo interesse appartengono le rassegne pubblicate su Società nell'immediato dopoguerra, che continuano ad aggirarsi intorno a quel problema del rapporto tra riforma e storia nazionale tedesca, ancora la questione del primato, che aveva dato inizio alla storia degli eretici. Un filo molto chiaro collega dunque l'attenzione di Cantimori alla storiografia tedesca prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. La recensione pubblicata su Belfagor nel 1953 a Paul Joachimsen di Reformation als Epoche der deutschen Geschichte si sofferma sulla tradizione ranchiana del problema con la sua, cito, accentuazione del motivo nazionale. Certo, a questa data gli accenti sono assai diversi, La riforma, per Cantimori, appare un fermento di rinnovamento sociale religiosamente formulato, represso nella guerra dei contadini e nella lotta contro gli anabattisti. Non ne accetta l'interpretazione come momento della storia tedesca, né, cito, la tendenza di molti professori tedeschi, celebre il Troeltsch, a fare della Germania la mediatrice tra Occidente e Oriente europeo come base per una funzione egemonica europea della Germania stessa, tendenza nata all'inizio, continua ancora Cantimori, all'inizio del periodo guglielmino e sopravvissuta fino a tempi recentissimi, variando solo alla superficie le sue formulazioni dopo la crisi della guerra 1914-18 e la rivoluzione di ottobre. E qui Cantimori pensava a Ritter, di cui recensì di Neugestaltung Europas, rilevando come Ritter fosse rimasto, cito, ora quasi solo dopo la guerra 1939-45 a rappresentare quella famosa tradizione universitaria tedesca di dotti ricercatori che tramandavano dalla cattedra e col seminario le ultime conclusioni degli studi e i metodi scientifici di lavoro, e notando che era storico politico e storico protestante. E per criticare quella tendenza a sottolineare solo il carattere politico della riforma e a insistere su di una lettura politica della storia in genere, Cantimori non trovava di meglio che rinviare al saggio di Chabot nel volume collettaneo dedicato allora a Benedetto Croce. Vorrei concludere ricordando che il dialogo faticoso che Cantimori continuava allora con la tradizione tedesca trovava nella diversa situazione creatasi nel dopoguerra nuovi fili a cui allacciarsi con l'opera di Jedin, cioè con una storiografia di esiliati e con una storiografia cattolica che cercava tuttavia di ereditare proprio dalla tradizione di Ranke il disegno classicamente politico, l'erudizione e un punto di vista più vasto. L'interesse per Fèvre e per la ormai avanzante storiografia delle Annales non è assente. Per Fèvre non mancarono giudizi elogiativi fin dalla recensione alla Marguerite e al suo Lutero, e tuttavia un interesse temperato da critiche e da riserve continue sulla sua allusività, sul rischio di tautologia e così via. E il consenso, pur limitato, riguarda la valutazione di Fèvre del momento rivoluzionario della riforma di Lutero prima del ripiegamento della guerra dei contadini. Invece, ben più importante resta per Cantimori Jedin, introdotto in Italia con tanto di genealogia culturale, tradizione Döllinger, Janssen, Pastor, della quale possiamo dire, scrive Cantimori, che Jedin è oggi il rappresentante maggiore e più autorizzato, con questa preoccupazione per le genealogie universitarie e intellettuali che rese preziosi tanti suoi interventi, tante sue introduzioni, tante sue prefazioni. Restava aperto per Cantimori intanto il suo libro, La ricerca sul nicodemismo del 49 e l'emergenza nel mondo degli studi di una sua difficile ricerca di identità politico-ideologica, e La scrittura degli eretici doveva riprendere dopo una lunga pausa, non casualmente, dopo il 1956, quando Cantimori decideva di lasciare i sociologi del secolo XX per tornare ai teologi del secolo XVI. Per tendere verso l'obiettivo mai realizzato di una storia d'insieme del rapporto tra religione e idee politiche e aspirazioni e progetti sociali nell'Italia della prima età moderna, progetto nato in discussione feconda con la storiografia tedesca sulla riforma. Grazie. È un ringraziamento quasi commosso che devo fare a Prosperi, perché ci ha riportati sui rami dell'albero genealogico indegnamente. Ci si sente figli di grandi padri e di padri che sono stati proprio legati alla cultura tedesca o provenienti dalla cultura tedesca, insomma, ecco. No, così molto semplicemente, insomma, ecco. E questa è la storia da cui è nato, credo, anche questo istituto storico italo-germanico, semplicemente. Per questo l'ho sentito particolarmente vicino, e grazie.